140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Cinema Apollo, Milano. Ormai non si invecchia più. Sui Sempre Giovani esce Forever Young di Fausto Brizzi, con una nuova coppia comica, Stefano Fresi e Teo Teocoli. Una bella coppia di suocero e genero, di un incontro tra generazioni e un incontro tra due attori di due generazioni diverse, ma che secondo me si sono ben completati. Cosa mi dite? Io ritengo un privilegio aver potuto lavorare con lui, perché mi sono divertito tantissimo. Non cominciare così l'intervista, perché poi devo dire la verità, mi metti in difficoltà. Vabbè, niente, c'era Teocoli, l'ho fatto con Teocoli, fosse stato un altro l'avrei fatto con un altro, però insomma ormai avevano chiamato lui e... No, cioè, mi sono divertito tantissimo, perché lui ha questo istinto vero, e quindi ti diverti perché non sai mai dove andrà a finire la scena, perché se tu improvvisi una cosa lui ti viene dietro, e questo mi ha portato a divertirmi veramente tantissimo durante la lavorazione del film. E poi lui è perfetto, cioè lui è veramente non è neanche un forever young, lui è proprio young. Io ho detto che sostituirei il suo stato di salute col mio adesso, non voglio essere come lui a 70 anni, io voglio essere come lui oggi. Beh, però insomma, la verità è che lavoravamo da soli in pratica, correndo per le strade di Roma, salite, discese, scalini, dove lui mi seguì in bicicletta, ha rischiato anche la vita, perché io da Carogna Vera gli ho detto attento i gradini, quando era già a metà della gradinata. No. Sì, volevo un incidente. Tanto io sono ieri, avrei continuato a correre da solo. No. E abbiamo trovato subito un feeling, se si può usare questa parola, so, feeling. È un po' da Forever Young, feeling, ecco, da Forever Young, un feeling sia nel lavoro e sia nella vita. Siamo diventati amici in pochi giorni, ci siamo capiti e abbiamo anche recitato proprio con più facilità, perché ci capivamo, solo dalle espressioni, dai movimenti già si capiva. Inoltre, quando io mi dimenticavo le battute, lui, quando era di controcampo, me le suggeriva. Ma non è vero. Sì, è vero. Devi dire che siamo qui, dobbiamo andare fino alla... Cosa? Sta fingendo. Un'anzianità che non ha. Non ce l'ha. Hanno stoppato. Che state a fare? Ma è lui che parla, diciamo. Mentre recito lui parla, e allora la Carogna viene fuori Carogna sempre. Fine, certo, però in definitiva veramente io sono soddisfattissimo di questo film, e sono soddisfatto anche proprio del modo con cui l'abbiamo affrontato. Ma che stai dicendo? Era dentrissimo là! Amore, l'hai vista pure te! Sì, però andiamo, la fate dopo la rivincita. Ma quale rivincita? Io non la voglio la rivincita con questo ladro! Ecco. Attento come parli, perché io sono avvocato, ti posso denunciare per calunnia! Ma ricordati, come diceva Shah Shapiro, bisogna saper perdere! Certo, certo, ma non si può neanche sempre vincere, capito? Te sei portato la clac, l'arbitro l'hai tirato fuori di galera, hai rubato tutta la partita, ammettilo, Franco! Papà! Nella grande tradizione delle commedie italiane, la commedia riesce a ridere dei nostri difetti, dei difetti della società. Voi vi eravate mai fermati a guardare questo aspetto dei Forever Young? Beh, sì, fermati. Io li vedo, essendo un mezzo spagnolo, frequentando un'isola come quella di Ibiza, che una volta era un'isola hippie quando sono arrivato io. Fatta di musica, di cose, di tutto bello, un paradiso, adesso è diventato un po' il centro, no? Della modernità, delle discoteche, di tutto quello, ed è pieno di Forever Young, pieno di Forever Young, ricchissimi, perché poi serve essere, tu non puoi fare Forever Young senza una lira, dove vai? Io sto già prendendo il biglietto aereo per Ibiza, vedete voi. Sì. Lui che vive in uno scantinato col violoncello, a dove può andare? Sto per venderlo, tra l'altro. Sì, lo scantinato e il violoncello. Tutti e due. I parenti dell'avvocato Martani? Come sta? Ora tutto a posto. Il malore probabilmente è stato causato da uno scompenso cardiaco dovuto a uno stress fisico molto forte, no? Quindi per sicurezza è meglio eseguire al più presto tutti gli accertamenti del caso. Certo. Andiamo? Oggi è la finale del torneo di paddle. Dove devo firmare, dottore? Ma che paddle e paddle? Tu con gli sport hai chiuso, papà, andiamo. No, è stato solo un calo di zuccheri. Ma quando li hai visti mai tu gli zuccheri? Avvocato, faccia come crede. Il mio consiglio è il riposo assoluto. Oh. Si ricordi che non è più un ragazzo. Buona giornata. Ma mica sono un vecchio, però. Guarda che nella vecchiaia ci sono anche un sacco di lati positivi. Ad esempio? Ad esempio non sei morto giovane. Sono curiosa di sapere cosa avete imparato l'uno dall'altro. Un ballerino e un musicista cosa hanno imparato l'uno dall'altro? Ma io da lui ho imparato un po' di... Ma non ho imparato niente, in effetti. E quando nasce un'amicizia così spontanea, anche se magari dura poco, perché magari non ci vedremo meno, non faremo un altro film, ma quando nasce così spontanea non si impara niente, si è alla pari e non si parla di come dire, oh, ma tu cosa fai, cosa hai fatto, non so, io vorrei diventare quello. Questo non è successo. Abbiamo cominciato a parlare mangiando i cestini. Stefano, da te non me lo sarei mai aspettato. Che cosa? Che parlassi mangiando i cestini. Perché? Io sono bravi, sono professionista, ragazzi. Mangio solo verdure, mangio solo sedano, figurati. Ho imparato che se fai un mestiere dove sei felice in questo mestiere, arrivi con questo sorriso irrinunciabile alla sua età e rimani giovane davvero. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Teo Teocoli e Stefano Fresi. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.